in primo piano. Buongiorno agli ascoltatori. È di nuovo Iran al centro dell'attenzione dei principali quotidiani dopo le vicende di ieri, dopo i nuovi scontri, dopo le nuove morti. Le crepe del regime, l'articolo di fondo di Carlo Jean su Il Mattino, un'analisi appunto dei punti di crisi interni al regime iraniano. Viene ripreso lo stesso tema da un editoriale di Igor Mann che analizza sulla stampa, la stampa titola L'Iran precipita nel caos. L'editoriale di Igor Mann, Il sogno dei turbanti si è rotto, e analizza le fratture interne alla società iraniana tra un gruppo di cultori di buone letture, per dare l'idea di un gruppo esteso di intellettuali all'interno della società, ma anche le divisioni interne alla parte che oggi sta attaccando quel gruppo di cultori di buone letture. E attorno a queste vicende si apre anche il manifesto con un articolo di Marina Forti che evidenzia l'attacco su 300 persone disarmate innocue e scelte di sangue, titola il manifesto, sempre con riferimento alle vicende di Teheran. L'editoriale di Guido Rampoldi su Repubblica, il dilemma dell'Occidente, è una rivisitazione delle politiche tenute dai principali paesi occidentali, in particolare dall'amministrazione statunitense, negli ultimi 15 anni nei confronti dell'Iran. C'è una riconsiderazione critica della politica dell'amministrazione Bush, dei falchi che in qualche modo hanno determinato un'amplificazione delle tensioni all'interno del paese, e c'è una analisi di ciò che può accadere nel futuro con un dilemma rispetto al quale si trova appunto l'Occidente: se adottare un profilo prudente, come ha fatto Obama nei primi giorni della crisi, ma questo determinerebbe ora probabilmente una maggiore serenità da parte del regime iraniano a confidare sulla più totale impunità internazionale, o invece difendere apertamente i manifestanti, e però a questo punto dando anche un pretesto per puntare su uno scontro violento interno al paese con conseguenze difficilmente valutabili. È invece sul nostro paese che si concentra l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, che ripercorre un processo di personalizzazione della politica avviatosi in Italia a partire dall'esaurimento delle culture dei partiti politici, dice Galli della Loggia, che risalivano al Comitato di Liberazione Nazionale e alle vicende alte della storia nazionale. Galli della Loggia dice: dopo questa crisi è subentrato un generale nulla, sono rimaste solo le persone, solo le nude persone. Da questo punto di vista, continua Galli della Loggia, Berlusconi, lungi dall'essere la malattia, è solo il sintomo, esasperato forse, ma solo il sintomo. E qui ripercorre una attenzione anche da parte dei media per aspetti legati a vicende personali dei leader, e sostanzialmente mostra, se questa è la tesi di Galli della Loggia, che la personalizzazione sta prendendo tutti gli attori delle vicende istituzionali italiane e determina un dileguamento della politica e della parte istituzionale, con una dissociazione, ed è questa un po' la tesi finale di Galli della Loggia, tra politica e oligarchie politiche e paese, che sta determinando una perdita di un senso di destino comune. Queste sono le parole di Galli della Loggia: senza ambizioni e progetti per il futuro, in un paese che non si stima e che non sembra più capace di chiedere nulla a se stesso. Quindi non un quadro idilliaco quello che descrive Galli della Loggia, forse anche eccessivamente pessimista, aggiungerei con una notazione di carattere personale, se mi è consentita, perché mi pare che la società civile abbia elementi di vitalità che esulano da queste dinamiche. Si concentra invece sulle vicende interne al Partito Democratico un approfondimento su Il Foglio che commenta l'ingresso, la candidatura esplicita di Dario Franceschini alla segreteria, Dario riformatore sulle pensioni per spiazzare Bersani e Letta, e fa riferimento a due passaggi dell'intervento con il quale Franceschini si è appunto candidato alla segreteria del Partito Democratico, citando appunto le parole di Franceschini che chiede un patto tra le generazioni con cui i genitori si dichiarino disponibili a lavorare qualche anno in più per garantire ai figli un lavoro più stabile e ammortizzatori. Ed è quindi su un tema che fu alla base di profonde spaccature all'interno della coalizione di centrosinistra nella precedente legislatura, quello della riforma del welfare e della riforma delle pensioni, che questa volta sembra verificarsi un confronto in senso riformista tra i due candidati in pectore, quindi tra Franceschini da una parte e Bersani e Enrico Letta che lo sostiene dall'altra parte. È invece su una analisi della situazione nella quale si trova la Chiesa italiana, i peccati del potere e l'imbarazzo della Chiesa, l'editoriale di Vito Mancuso su Repubblica. Sostanzialmente anche qui ci troviamo di fronte a un editoriale molto ampio di respiro storico che ricostruisce la dialettica e i punti di tensione tra una vocazione politica della Chiesa. Mancuso cita l'alleanza tra trono e altare che ebbe inizio con l'imperatore Teodosio alla fine del IV secolo e che poi non si è più interrotta, quindi tra Chiesa politica e Chiesa profetica, ed è a riferimento di una Chiesa profetica all'interno del nostro paese, di una tradizione cattolica che a questa componente si è ispirata, che Mancuso si volge parlando di imbarazzo nei confronti delle vicende, rispetto alle vicende che si stanno determinando all'interno del paese in termini di rapporti tra politica e morale. E un punto conclusivo dell'analisi di Vito Mancuso: una cosa però deve essere chiara, dice Mancuso, le parole della Chiesa, quando in futuro essa pretenderà di parlare in difesa della famiglia, risulteranno a questo punto molto meno credibili. Perché se c'è una realtà che esce male dalle rivelazioni sulla vita privata dell'attuale capo di governo è proprio la famiglia nell'accezione cristiana del termine. Quindi un'analisi anche in questo caso molto dura delle vicende che stanno interessando il nostro paese, delle relazioni tra diverse anime, diverse componenti della società. Sempre di famiglia e di componente cattolica parla di nuovo un approfondimento su Il Foglio, che questa volta però evidenzia come quella pressione politica a cui facevamo riferimento precedentemente si eserciti in questo caso per chiedere misure a sostegno della famiglia, e quindi come possono emergere delle richieste, dei punti di tensione, vista anche la situazione di difficoltà dei conti pubblici su questo versante. È un articolo di fondo di Carlo Azeglio Ciampi, La scintilla che serve all'Europa e all'Italia, che apre l'edizione del Messaggero di oggi. Ciampi evidenzia un punto, anche in questo caso un punto di tensione, una richiesta per gli stati nazionali che da un lato da soli non ce la possono fare, e dice Ciampi attenzione perché questa difficoltà e impossibilità di operare da soli da parte degli stati nazionali non deve tradursi in un alibi per l'immobilismo, e tuttavia è necessario, e questa è l'analisi di Ciampi, che i paesi cedano sovranità per dar forza complessivamente all'Europa come player unico sullo scacchiere dell'economia mondiale, e tuttavia anche recuperando al loro interno capacità propulsive per fare molte delle cose che avrebbero dovuto fare da almeno 15-20 anni, e qui il richiamo è alla situazione italiana. Quindi la fiducia, dice Ciampi, è la scintilla di cui l'Europa e l'Italia hanno bisogno da troppo tempo in questa dialettica istituzionale, che certo non è in una fase semplice, perché la tensione tra sovranità nazionale e riferimenti sovranazionali è sicuramente stata amplificata dalla crisi. È un commento di Federico Fubini sul Corriere della Sera, un commento retrospettivo alle 60 lezioni per il futuro che abbiamo commentato ampiamente ieri, richiamando l'intervento conclusivo di Guido Tabellini, e c'è un punto molto interessante dell'approfondimento di Fubini nella pagina dei commenti del Corriere, che sostanzialmente richiama l'importanza di iniziative che scardinino anche nell'analisi economica i pensieri unici e qualunque tentazione di liquidare il disaccordo e il dubbio come conoscenza superficiale. In altre parole, Fubini ricorda l'importanza di analisi indipendenti e svolgere analisi intellettualmente dipendenti, anche richiamando un articolo di Kapoor sul Financial Times, per avere capacità di interpretazione e di analisi della crisi. Ed è sulle tensioni istituzionali tra stati nazionali ed Europa che apre anche Liberazione. C'era una volta Maastricht, e appunto fa riferimento alla eterogeneità di politiche adottate dagli stati europei di fronte alla crisi, alle tensioni che questa eterogeneità potrà indurre. Più mercato per riavviare il sistema è l'editoriale di Martin Wolf sul Sole 24 Ore. Martin Wolf, editorialista anche del Financial Times. Basta bailout, sostanzialmente, basta far riferimento al principio troppo grandi per fallire, non dovrà più succedere se vogliamo un capitalismo diverso. Mi permetto sommessamente di osservare che si tratta di una bella enunciazione di principio, ma che l'accoppiamento tra finanza ed economia reale renderà sempre vulnerabile il sistema ad operazioni di questo tipo, qualunque cosa la regolazione faccia. Certo è che negli ultimi anni c'è stato un accoppiamento, e questo viene evidenziato molto bene nell'articolo di Martin Wolf, tra amplificazione della volatilità legata all'incertezza sui mercati reali e invece dinamiche distorte legate al peso che la finanza ha avuto in un eccessivo apprezzamento dei titoli azionari e in un'incentivazione di manager e azionisti per la preferenza verso la volatilità. Un punto interessante è anche sull'editoriale di oggi di David Pilling sul Financial Times, ci riporta all'attenzione, alle connessioni, alle interdipendenze dell'economia mondiale, e ci dice degli sforzi che i paesi asiatici, segnatamente la Cina e il Giappone, stanno facendo per fuggire da quella che viene definita una export trap, cioè una trappola legata alla dipendenza eccessiva delle economie di questi paesi dalla domanda internazionale. Naturalmente c'è il riferimento al grande programma di stimolo cinese, ma certamente si fa anche una analisi delle tensioni sociali e della necessità, ad esempio, di accompagnare le misure di stimolo con la creazione di una rete di social welfare che sicuramente impegnerà e determinerà anche transizioni politiche all'interno del paese. È invece sugli scenari di macroeconomia finanziaria che si soffermano diversi quotidiani, analizzando l'intervento della Banca Centrale Europea con un rifinanziamento al sistema bancario atipico, straordinario, perché durerà, è un pronto controtermine che interviene, si realizza su un periodo lunghissimo di 12 mesi rispetto alle operazioni standard di questo tipo, a un tasso di interesse predeterminato e fisso, e con l'impegno della Banca Centrale Europea ad accettare tutte le richieste senza limiti. In altre parole, questo è un intervento che si propone di allentare le tensioni sul sistema bancario. Naturalmente ne discendono le raccomandazioni di Lorenzo Binismaghi ieri a Roma, che dice è importante che questa liquidità possa trasferirsi adesso all'economia, e di nuovo quindi richiama una nota tensione tra banche e sistema industriale, che poi è stata ripresa, ad esempio, questo viene trattato estesamente, ad esempio esempio su Milano Finanza, dal ministro dell'economia Giulio Tremonti ieri durante il suo intervento presso l'Associazione dei Commercianti. Ed è invece al duello all'ultimo dollaro tra Bernanke e il Wall Street Journal che fanno riferimento sia un editoriale sul Wall Street Journal, appunto, sia approfondimenti che troviamo in particolare da parte di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, ma anche sulla Stampa, sul Foglio e su diverse altre testate. È interessante l'analisi di Massimo Gaggi, che sostanzialmente dice: ora c'è chi teme l'inflazione, e devo dire che questa era una previsione non difficile, nonostante che gli spettri della deflazione siano stati sollevati e agitati per mesi, perché la poderosa immissione di liquidità che è stata utilizzata dalla Fed per uscire dalla crisi, ma che già ha alimentato il sistema dai tempi di Alan Greenspan, con una continuità di fondo dell'azione di politica monetaria. Questa bulimia della Fed, come viene etichettata e definita da Il Foglio, rischia adesso di minarne da un lato la credibilità e l'indipendenza dal governo, ma da un altro lato sta gettando i semi per una futura inflazione. Sia l'intervento di Tremonti su Il Sole 24 Ore, sia i richiami su vari quotidiani alle previsioni dell'OCSE, che dicono che è stato toccato il fondo e che c'è area di ripresa e che danno per l'Italia una posizione complessiva, anche riferita al debito pubblico, migliore ad esempio di quella del Regno Unito, ecco, appunto, richiamano ed echeggiano un intervento che Giulio Tremonti ha tenuto martedì 23 giugno in occasione della festa per il 235esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, ripreso dal Sole 24 Ore: più regole globali per la ripresa. Ma non è solo di regole globali che parla l'articolo, che parla l'editoriale di Tremonti, fa un'analisi per quanto sintetica ma estremamente puntuale di quelli che il ministro considera i fondamenti della solidità dell'economia italiana in termini di articolazione della geografia civile. Richiamo a 8.000 comuni, alla geografia economica, agli 8 milioni di partite IVA, alla struttura finanziaria che non ha avuto un effetti così forti come quelli che si sono realizzati in altri paesi per un grande risparmio privato, e la parte riferita alla solidarietà pubblica e privata basata sul sistema delle pensioni pubbliche e sulle istituzioni familiari. C'è poi un'analisi, sì, riferita alle regole del mercato globale, alla lotta all'evasione, e certamente c'è anche un richiamo al ruolo che la Guardia di Finanza svolge all'interno del paese. È di iniquità italiane invece di un sistema di welfare tutto pensioni che parla Gianfranco Fabi, evidenziando come la polarizzazione della spesa pubblica per il welfare sulle pensioni sia uno dei problemi del paese. Di maturità, prima Milan faceva riferimento al tema del giorno, parlano molti quotidiani, ricordano la notte degli esami, ci sono vari passaggi in cui il ministro Gelmini dice: troppi studenti bocciati, è bene che sia così, è finito il buonismo del 68, e questi ostacoli rimasti, quindi un ostacolo rimasto serve per essere migliori. L'articolo di Paola Mastrocola su Repubblica, che richiama anche l'importanza di scioccare i giovani con letture stimolanti. Passo la linea a Milan. Buona giornata.